534. Arrosto morto lardellato. Prendete, mettiamo, un pezzo corto e grosso di magro, di vitella o di manzo, nella coscia o nel culaccio, ben frollo e del peso di un chilogrammo all'incirca. Steccatelo con grammi 30 di prosciutto grasso e magro, tagliato a fettine. Legatelo con lo spago per tenerlo raccolto e mettetelo in una cazzaruola con grammi 30 di burro, un quarto di una cipolla diviso in due pezzi, 3 o 4 costole di sedano, lunghe meno di un dito, ed altrettante strisce di carota. Condite con sale e pepe e quando la carne avrà preso colore, voltandola spesso, annaffiatela con 2 piccoli ramaiuoli d'acqua e tirate la cottura con fuoco lento, lasciandole prosciugare molta parte dell'umido. Ma badate, non vi si risecchi e diventi nera. Quando la mandate in tavola, passate il poco succo rimasto e versatelo sulla carne, che potrete contornar di patate a spicchi rosolati nel burro e nell'olio. Potete anche metterla arrosto morto al fuoco, col solo burro, e tirarlo a cottura con la cazzaruola coperta da una scodella piena d'acqua.